Llovió, paró, llovió. Y un chico adivinó. Bentornate, bentornati su Radio ZM. Oggi una puntata speciale, un'intervista speciale. Abbiamo organizzato una serie di interviste, di chiacchierate con alcune persone che 20 anni fa hanno partecipato al G8 di Genova. E oggi qua con noi per questo speciale di Radio ZM sarà presente Anahí. Abbiamo iniziato la puntata con i Gotham Project, suggeriti proprio dalla nostra ospite. E intanto godetevi un po' queste canzoni, questo ritorno un po' al passato, perché appunto, come ci è stato ben raccontato, è un disco prodotto proprio in quegli anni, e ci risentiamo tra pochissimo per la nostra intervista. Malos eran esos aires, fue hace 25 años. Existía sin existir todavía. Eccoci qua. Allora, come redazione di questa radio abbiamo deciso appunto di riprendere un po' le storie che hanno riguardato Genova al G8 del 2001 e ricostruire, quindi da partire dalla memoria, ricostruire la storia di quel periodo, una storia che però ci coinvolge fino ad oggi. E sappiamo che non è facile chiedere a chi era a Genova nel luglio del 2001 di parlare di quell'esperienza, però pensiamo che sia stato un momento fondamentale della storia dei movimenti in particolar modo, e quindi vogliamo trovare una sorta di filo comune per ricostruire appunto questa storia. E guardiamo a quelle giornate come uno snodo cruciale attraverso il quale si è articolata la nostra storia di oggi, ed è proprio attraverso la lente della storia che vorremmo narrare diverse esperienze e punti di vista, tentando di metterle insieme e provare a superare quindi la memoria soggettiva di ogni singolo individuo, cercando ovviamente di non giudicare il punto di partenza di ogni persona, ma per focalizzarci sul punto di arrivo. Un punto di arrivo che quotidianamente cerchiamo di costruire in molteplici modi e forme nei territori che attraversiamo e viviamo oggi nel 2021. E a distanza di 20 anni da quelle giornate, riteniamo sia possibile, oltre che anche doveroso, sospendere le divergenze che magari ci sono state o che ci sono tuttora, e provare a trasformare in storia quella che fino ad oggi abbiamo chiamato memoria collettiva. È una grande ambizione e alcuni rapporti sul quale si basano gli equilibri del movimento sono appunto molto, molto fragili, noi lo sappiamo, ma siamo altrettanto consapevoli dei molteplici punti in comune attraverso il quale ripartire con una nuova narrazione. E una narrazione che parta dalla repressione vissuta da tutti e tutte e che provi ad andare oltre gli errori, oltre le visioni personali e soprattutto personalistiche, che parta da una consapevolezza di aver vissuto un momento unico e irripetibile della nostra storia recente, e che parta dalla consapevolezza che a Genova avevamo ragione. Lo stato pietoso in cui versa il nostro pianeta e la svalutazione totale delle vite umane sono solo alcune delle tante prove di cui avremmo volentieri fatto a meno e che ancora oggi sono sotto i nostri occhi. Quindi adesso vi presento Anahí, qua con noi, la nostra intervistata ospite di oggi all'interno di queste discussioni, che fa parte del gruppo Ippolita. Ciao Anahí. Ciao a tutte e a tutti, grazie di avermi invitata con voi. Grazie mille a te per aver accettato il nostro invito in questo piccolo progetto, che poi tanto piccolo non è, vuole essere un pochettino ambizioso e sappiamo anche non essere proprio semplicissimo. Quindi grazie mille, benvenuta alla nostra radio, Radio ZAM. Ciao Anahí. Ciao. Allora, sì, io sono Anahí. Ah, vado, prego, sì, prego. Sì, no, se ti vuoi presentare e raccontare un po' qual è il gruppo di cui fai parte, il gruppo Ippolita. Sì, no, giusto 2 minuti per dire chi sono. Mi chiamo Anahí Raya, e ero a Genova durante il G8 nel 2001 e oggi faccio parte di un gruppo, di un collettivo che si chiama Ippolita, che si occupa di tecnologie digitali, di critica alle tecnologie digitali. E Ippolita si occupa anche di editoria e da qualche tempo abbiamo aperto una collana di libri che si chiama Culture Radicali per Meltemi Editore. Tra l'altro ho letto qualcosina, tutte molto interessanti. È un bellissimo progetto. E allora direi di partire, Anahí, noi abbiamo alcune domande da farti e iniziare questo piccolo percorso nella memoria. E per iniziare volevamo chiederti un po' qual è stato il tuo percorso individuale e anche collettivo con cui sei arrivata a Genova nel 2001, di che area politica facevi parte e soprattutto anche un po' il clima che si respirava, quali aspettative c'erano sia a livello tuo personale ma anche di gruppo, e che più o meno che relazioni intercorrevano fra le diverse anime del movimento, se appunto ti va di farci una piccola panoramica su questi aspetti. Certo, dunque è strana per me la locuzione area politica, perché diciamo è una definizione un po' complicata. E, dal punto di vista ideologico, sicuramente, come dire, tra leninisti e delosiani, io sono sempre stata dalla parte dei delosiani, cioè quindi un po' dalla parte della dimensione più creativa e filosofica della vicenda. Grazie per averci ispirato. Però poi non lo sapevo, questa di Deleuze non la sapevo. E facevo parte di alcuni collettivi, poi nel concreto ovviamente facevo parte di alcuni collettivi, ma ecco, io ho cercato di fare un'esperienza di autonomia a Genova nel 2001 rispetto ai gruppi che frequentavo, e sono contenta che nelle vostre domande ritorni proprio la relazione tra la dimensione individuale e la dimensione collettiva, perché spesso queste due dimensioni sono in contrasto l'una con l'altra. e io faccio parte della prima generazione del deposito bulk, cioè quella del 97, che era più legata al movimento studentesco, e quindi diciamo del primo bulk, quello di Via Don Sturzo. Sì. Nel 2001 ero, però insomma ecco, nel 2001 io ero piuttosto in rotta di collisione con invece con la seconda fase dell'esperienza del bulk, e infatti avevo occupato insieme ad altre attiviste amiche carissime una casa occupata che si chiamava She Squat, che era una casa di sole ragazze. Famosa, ne ho sentito tanto parlare. Sì, questa è abbastanza sì, determinante per quel periodo lì, almeno nella mia storia, perché noi eravamo un po' stufe delle dinamiche d'assemblea in cui si sa già chi apre, chi chiude, le persone che parlano, quelle che invece non parlano, e ovviamente c'era una preponderanza di voci maschili. Io ero quella che interveniva di più tra le ragazze, quindi non potevo non essere consapevole della disparità di genere che era presente nelle decisioni. Per noi questo era chiaro, perché era chiaro che ci fosse una gerarchia molto definita, che magari per quanto diciamo ampia rispetto ad altri gruppi, per cui tendente comunque all'orizzontalità, ma comunque in quella gerarchia che c'era, c'era una schiacciante maggioranza maschile. Sì, io avrei potuto stare in quella dinamica di potere in un ruolo che per quanto minoritario era comunque ai vertici, e invece ho scelto la sorellanza, e questo ha determinato poi tutta la mia vita a venire, oltre che quello che ho fatto poi a Genova. Cioè sostanzialmente, come dire, ho scelto di rifiutare il privilegio del potere per fare un'esperienza con le mie sorelle, di che non era determinazione, quindi a tutto sì. tondo. Eravamo proprio un pugno di ragazze, eravamo Titta, Alessia, Landai, la Giulia G, la Panella, la Sara J, la Diana, la Livia, la Giulia di B, sì. la Vale, la Busquet, insomma, cioè altre poi si sono unite nel percorso, però veramente eravamo poche. E ovviamente non è che tutti la presero bene, nel senso che ci aiutarono sicuramente ad occupare, però come dire, anche un po' guardandoci dall'alto in basso, no? Come a dire, vedete che senza di noi non siete mica capaci di fare le cose. Però insomma, comunque era un'occupazione di ragazze, noi ce la siamo portata avanti fino in fondo, e questa cosa non si era mai vista a Milano. Infatti è stato un bel momento di rottura, immagino. Sì, e quindi l'esperienza sì, beh, complessivamente ha bucato l'immaginario collettivo del tempo. A 20 anni di distanza siamo tutti amici, ci amano tutti, nel senso, quando poi si parla di She Squat tutti quanti hanno da tessere solo lodi, però al tempo eravamo veramente una voce fuori dal coro, e alcuni ci digerivano veramente a fatica. Infatti non è che siamo mai state invitate a raccontare la nostra esperienza, per esempio nei contesti pubblici in cui si è parlato delle storie di movimento, del movimento di Milano. Il bulk peraltro ha cercato di replicare più volte in modo artificiale e sotto la propria ala l'esperienza del collettivo femminista, ovviamente però senza mai riuscirci, perché queste esperienze sono reali quando sono indipendenti, quando sono autodeterminate. Esatto. Più che indipendenti, ecco, quindi. Comunque, insomma, per tornare a noi. Beh. Io e mia sorella stavo super bene, potevo rilassarmi, non dovevo essere una guida di nessuno, e a Genova, infatti, come dire, mi hanno anche lasciata fare quello che avevo voglia di fare come singola individualità. Quindi sei andata proprio con il contesto She Squat, con le tue sorelle? E no, il contrario. Noi siamo scese tutte insieme con Macaia, che era organizzata dal Bulk. L'operazione Macaia era un'operazione cittadina organizzata dal deposito Bulk. Okay. Noi abbiamo preso i treni tutti insieme, tutte e tutti insieme. Poi una volta che siamo arrivate lì, al Carlini, intendo dire, le mie compagne hanno, come dire, scelto di viversi una situazione collettiva tra di loro, dentro e fuori la relazione con Macaia. Io invece ho preso un'altra onda, mi sono beccata con un po' di ragazzi del folletto di Biotegrasso, sì, che era, anzi è, un piccolo centro sociale della Milano metropolitana, e altri pochi amici che avevano scelto di scendere a Genova con la Vespa. Questo per avere un mezzo per muoversi rapidamente da una situazione all'altra e inviare le notizie al media center da un lato, ma anche ovviamente ai compagni e alle compagne di Macaia. Questa, diciamo, scelta logistica, tra virgolette, in realtà mi aveva permesso di guadagnare una distanza politica dall'intruppamento milanese, da un lato, ma anche dall'altro, dal fortino del media center, dove invece ci era radunato il gota della comunicazione indipendente. Okay. Diciamo che in questo modo io sono riuscita a mantenermi un po' fuori dagli schieramenti milanesi, però al contempo mi sono anche potuta posizionare, diciamo, in relazione a, trovando, cioè, un modo di esserci fino in fondo, perché comunque io non sono tornata indietro con i treni organizzati da Macaia. Quando poi loro sono tornati indietro, sono rimasta. Però non sono nemmeno rimasta alla scuola Pascoli a tenere il fortino durante la notte in cui c'è stata l'invasione della scuola Diaz, l'invasione della scuola Pascoli, in cui poi ci sono state proprio, come dire, la mattanza, ecco, famosa della Diaz. Io non dormivo alla Diaz, non dormivo alla Pascoli, ho dormito a casa di amici ed ero lì il giorno dopo a organizzare i treni per portare via le persone che erano rimaste, in particolare le persone straniere che dormivano alla scuola Diaz, che ovviamente erano sotto shock e peraltro non giustamente non si fidavano più della nostra organizzazione, del fatto che noi, come dire, li potessimo riportare a casa con dei treni dove non c'erano neanche più gli avvocati, per intenderci. Dentro la scuola Pascoli non è successo niente. Dentro la scuola Diaz invece c'è stato il mattatoio, la famosa macelleria messicana. E questa cosa è dovuta al fatto che dentro la scuola Pascoli c'era il media center, quindi c'erano delle persone che avevano dei mezzi di comunicazione che per il tempo erano davvero molto molto potenti. Cioè, c'è stato un momento in cui eravamo all'avanguardia rispetto ai mezzi di comunicazione, dalle infrastrutture alla comunicazione. E quindi quando c'è stata l'invasione dentro la Pascoli praticamente non è successo niente. Perché? Perché avevano paura che le cose venissero documentate. Quindi in qualche modo c'era anche una sicurezza di chi rimaneva dentro la scuola Pascoli di essere protetti dall'infrastruttura comunicativa. Ovviamente non sapevano che sarebbero entrati dentro la scuola Diaz, però insomma questo poi è quello che è successo. E io mi ricordo che il pomeriggio che le mie compagne e i miei compagni sono andati via con i treni, quelli di Macaia, ovviamente non erano contenti che io rimanessi lì, perché comunque eravamo compagni, eravamo affezionati, per quanto fossimo in rotta di collisione comunque eravamo sempre, come dire, coinvolti nelle stesse battaglie politiche. E sono andata a fare il giro al media center e ho visto proprio nel pomeriggio il Genoa Social Forum togliere i computer e smontare l'ufficio stampa dicendo la seguente frase, aperte le virgolette: non abbiamo più copertura politica, dobbiamo andare via da qua. Quindi in realtà si sapeva già dal pomeriggio che sarebbe successo qualcosa e il Genoa Social Forum ha pensato bene di levare le tende dalla scuola Pascoli. Quel gesto è uno dei gesti che a me è rimasto più indigesto, perché ho visto, come dire, una sottrazione dell'aspetto proprio più istituzionale che era stato organizzato per Genova venire meno in un momento in cui c'era gran bisogno che quel tipo di formula funzionasse e fosse distribuita all'interno di tutti gli spazi che andavano presidiati, mentre invece insomma loro hanno deciso di togliere quel presidio. Questo brevemente per non dilungarmi troppo. Sì, brevemente, che però racchiude veramente già tante informazioni, tanti pensieri che si accavallano, soprattutto perché parlo io che non c'ero in quei giorni, ero a casa e quindi non piccola, però vengono tante domande, vengono insomma breve fino a un certo punto. Giulia, forse dovrei anche dire la mia età in effetti, perché poi questi sono particolari che magari no, mi sembra proprio giusto. Io sono del 78, 43 anni, e quindi a Genova ne avevo 23. Comunque giovane. Sì, giovane, assolutamente sì. Nello stesso tempo anche, come dire, consapevole, sì, di quello che stava succedendo, ecco. Beh, proseguirei un pochettino con le domande che noi avevamo un po' in mente di farti, e ti abbiamo chiesto un po' come sei arrivata a Genova, e volevamo chiederti anche di raccontarci un pochettino come invece ne sei tornata indietro, e, cioè, è una domanda un po' complicata, ce ne rendiamo conto, ma che cosa è successo dopo Genova, sia per te stessa come individuo, ma anche a livello collettivo e non solo, perché appunto, come ci hai introdotto già, c'era una situazione magari politica diversa, un po' particolare, e quindi come ha modificato il Genova, ha modificato, certo, questi rapporti una volta tornati indietro. E sì, anche noi eravamo un po' curiosi e curiose di sapere cosa pensi tu in particolar modo della divisione che è stata fatta tutti gli anni a venire, già dal giorno seguente, della divisione manifestanti buoni e manifestanti cattivi. Io sono, come dire, partita delosiana e sono tornata anarchica. E pure vegetariana. Sì, ma essere poi, diciamo, vegani, vegetariani all'epoca era una cosa proprio strana, un po' nuova, nel senso che tipo era nuovissima. Al bulk c'erano tipo due persone che erano vegetariane, e però è stata non è stata nemmeno una scelta, è stata una cosa semplicemente che è successa. E quindi insomma, diciamo che la vera scelta, però, quella poi, diciamo, nelle pratiche politiche collettive, devo dire che io mi sono buttata nell'ACLAB, mi sono buttata completamente nell'ACLAB, cioè ho scelto di andare a quella che secondo me, che io ritenevo fosse la fonte della conoscenza tecnica che aveva permesso di far vivere Indie Media e i Media Center tra Genova e Milano. E quindi sostanzialmente la mia storia si sposta, cioè torna nel quartiere Isola di Milano, perché noi avevamo avuto in passato anche una casa occupata, un ostello autogestito che si chiamava Metropolix in Isola. Per cui insomma io torno in Isola e mi sposto in Pergola. Mi sposto in Pergola, che era un'altra, come dire, situazione di movimento importante, storica, che c'era all'isola, perché in Pergola si era spostato l'ACLAB, nato nel 99 al deposito Bulk, che vive una sua seconda fase importante in Pergola, prendendo il nome di Reload, anzi, perché conteneva il nome Loa, che era stato il primo nome della club, e assumendo, diciamo, come slogan di battaglia reality hacking, e quindi con quest'idea di far uscire l'hacking dagli ambiti più più strettamente tecnici e di portarlo ad un livello di elaborazione politica più articolato. Quindi sostanzialmente io mi butto in questa roba qua, ed è proprio un po' sulla base di questo che nasce il gruppo Ippolita. C'è da dire però, come dire, per non farci mancare l'aspetto critico che è importante, che i mediattivisti dell'epoca come dire, hanno inseguito la traiettoria della comunicazione un po' in modo un po' massimalista, cioè senza problematizzare le questioni tecniche e quindi perdendo via la parte più importante per me delle trasformazioni politiche e sociali degli anni successivi. Cioè si sono un po' schiacciati sulla narrazione della comunicazione senza badare all'infrastruttura. Okay. Quando è finita l'esperienza di Indimedia, sostanzialmente i mediattivisti hanno pensato che fosse possibile fare la stessa cosa su Twitter. Peggio ancora, ci sono compagni e compagne che ignorano al punto, come dire, il significato politico delle infrastrutture, che, come dire, vorrebbero semplicemente avere dei social media autogestiti, come se il medium non fosse il messaggio, come se quel medium non fosse appositamente costruito per rendere subalterni i soggetti che vi partecipano. E quindi è chiaro che la riflessione sui media non solo, come dire, è arretrata, ma è stata completamente sovrascritta dalla narrazione dominante. E questo è sicuramente, come dire, per me il problema più grave degli ultimi anni rispetto a quell'avanzamento, a quella, come dire, eccellenza che eravamo stati a Genova. E quindi in generale la divisione buoni e cattivi non mi è mai appartenuta. Se devo ascrivere delle responsabilità, appunto, come ho detto prima, le ascrivo alla componente soprattutto parlamentare, che non ha presidiato a sufficienza i luoghi che dovevano essere maggiormente tutelati. E poi per il movimento dopo Genova comunque si è aperta una stagione perché c'è un po' una doppia narrazione che vorrebbe, da una parte che siamo stati sconfitti, no? E quindi sì, a quella narrazione lì che siamo stati sconfitti, a me un po' viene da rispondere: non è che siamo stati sconfitti, siamo entrati nella storia. Non è che nella storia ci devi sempre entrare da vincitore, come dire, l'importante è segnare dei passaggi. Però, come dire, ma a questo anche perché i 10 anni successivi non è che sono stati 10 anni di merda, comunque sono stati 10 anni di Mayday, di San Precario, sono stati anni dove sono state fatte delle cose anche molto belle, importanti. Io non sono stata protagonista di quel periodo, per esempio, perché era il periodo in cui invece io mi stavo concentrando sullo studio delle questioni tecnopolitiche, dell'informatica. Tant'è che appunto in quel periodo in realtà noi passavamo da She Squat a un altro progetto che avevamo chiamato XXY, che quindi era un po' il cromosoma mutante, perché eravamo passate da un'esperienza che era, diciamo, più spiccatamente separatista a un'esperienza che invece includeva formalmente alcuni ragazzi della Club Reload. E quindi ci tenevamo che anche nel nome fosse riportato che eravamo il cromosoma mutante, cioè che stavamo facendo un passaggio che per noi era anche un passaggio politico. Poi non è che a She Squat non ci sono mai stati ragazzi, cioè, noi abbiamo ospitato dentro la casa più di un compagno che è rimasto con noi, che ha fatto dei pezzi di strada con noi, quindi era un'esperienza separatista, nel senso che eravamo noi a prendere decisioni politiche, però non è che fosse una casa chiusa al mondo maschile. Casomai, se dovessi fare una critica a She Squat, direi più che non abbiamo problematizzato a sufficienza le questioni legate all'omosessualità, al lesbismo, al queer, le abbiamo vissute senza in realtà fermarci ad osservare, a guardare. L'abbiamo fatto, diciamo, con anni, con alcuni anni di ritardo. E comunque, diciamo, il periodo successivo a Genova è anche il periodo in cui nasce Ippolita, e quindi noi pubblichiamo i primi libri di Ippolita. Ippolita, che è un collettivo misto, anche lì c'è la scelta di mantenere una preponderanza, cioè doveva essere visibile la componente femminista, e già si doveva vedere sin dal nome. Però il gruppo era misto, cioè dentro c'erano dei maschi. I maschi, come dire, dovevano aderire anche a una, diciamo, almeno a una sensibilità femminista, cioè di comprensione rispetto alla necessità di una preponderanza femminile nelle decisioni, nei ruoli apicali, nella possibilità di parola, nella possibilità di riflessione. E così sono nati, diciamo, i primi libri, che erano Open Non è Free e Il lato oscuro di Google, insomma, che sono stati un altro pezzo. Non so quanto sto parlandomi. No, è perfetto, anzi io potrei stare ad ascoltare a lungo. E mi vengono anche tante domande. Io adesso farei una piccola pausa con un intermezzo musicale delle musiche che ci hai consigliato tu, e poi tra pochissimo riprendiamo con l'intervista. Allora, il nostro fantastico DJ automatico ci propone Vuelvo al Sur dei Gotham Project. Yeah, la mandiamo. A tra pochissimo. se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Eccoci tornate, l'intervista con Anahi, sempre parlando di Genova. Allora, durante i 3 minuti, 4 minuti di brano abbiamo parlato un sacco di cose, per cui abbiamo stabilito che d'ora in avanti registriamo qualunque cosa ci diciamo, perché è troppo interessante, troppo divertente. No, non è vero, non lo facciamo, perché sennò non respiriamo più e va a finire che diciamo cagate. Io soprattutto le dico, lo sto già dicendo adesso. Durante la pausa io stavo chiedendo ad Anahi se aveva voglia di esporci la sua opinione su una questione. Prima, mentre parlava di quello che ha fatto dopo Genova, quello che c'è stato nel movimento a Milano, in Italia, dopo Genova, ha fatto grande riferimento rispetto al livello di approfondimento, discussione, riflessione politica sull'utilizzo della comunicazione internet. Per cui diceva, se non sbaglio, se non posso citarti letteralmente, però il concetto che magari prima suggerivi era: non ci si è più interrogati sul valore politico delle infrastrutture che si utilizzano per comunicare via internet e comunicare in generale nella nostra realtà. Cioè, non ci si è più interrogati del fatto che i social media sono di per sé un progetto, cioè hanno un significato politico di per sé, sono strutturati in un modo per cui organizzano la comunicazione in un modo che magari non è quello che ci è proprio, e chi pensa di poterlo utilizzare ai propri fini in realtà sta utilizzando uno strumento che è già dall'altra parte, è già compromesso dal potere, tra virgolette, se così si può dire, e spero di non aver riassunto male il tuo pensiero. A questo punto la mia domanda, che l'ho fatta già troppo lunga, è: a Genova c'era una riflessione sui mezzi che venivano utilizzati per la comunicazione, e se c'era, qual era? Anche che ci allora, parte la musica classica ogni tanto così. Prego, prego, scusa. Ok. Allora, Indie Media è arrivata in Italia perché in Italia c'era una componente tecnica all'interno del movimento che era in grado di accogliere tecnicamente Indie Media, cioè era in grado di costruire dei pezzi di infrastruttura, che vuol dire banalmente dei server, su cui far girare parti di quelle informazioni, ok? Ok. Ora, sicuramente, come dire, sarebbe più giusto, per esempio, fare queste domande direttamente a persone come Blicero, come C1, come Bomboclat, come Tixo, come Espans. Ci sono, come dire, tante persone che hanno partecipato a quell'esperienza. Ci sono persone addirittura che non sono venute a Genova perché tenevano il media center che c'era a Milano. Cioè, a Milano c'era una sorta di unità di backup della scuola Pascoli, ok? C'era un gruppo di persone con un altro media center che era quasi speculare, ovviamente era più piccolo, che si occupava di creare una ridondanza di informazioni di modo che dovesse succedere qualsiasi cosa c'era qualcuno che avrebbe mantenuto in piedi la struttura, ok? Okay. La cosa particolare era che da una parte c'erano gli hacker, ok? Dall'altra parte, come dire, all'inizio c'erano i videomaker, ok? E la figura del videomaker e anche un po' del fotografo, che ibridandosi con l'hacker all'interno della cornice di Indie Media, crea la figura del media attivista, che è una sorta di evoluzione di quello che era chiamato precedentemente cyber attivista, ok? Di quello che era stato il cyberpunk, ok? Di quello che era stato il cyberpunk in Italia, che è stato connotato da tinte politiche che assolutamente non aveva in nessun'altra parte del mondo. Non è un caso che in Italia vengano a studiare il movimento, perché in Italia spesso nella storia sono successe delle cose un po' particolari. E una di queste cose è proprio la capacità di politicizzare la riflessione sulla tecnologia. Questo elemento è andato un po', come dire, perdendosi. Ovviamente, come dire, il fatto che oggi siamo qui e siamo in radio è interessante, è importante, perché vuol dire che qualcuno ha messo in piedi un server radio indipendente o si sta appoggiando ad autistici e sta buttando fuori un segnale indipendente. Ovviamente questo, come dire, crea anche una gerarchia interna. Chi è che ha messo su questo server? L'ha fatto per i fatti suoi? L'ha fatto insieme a un collettivo? Questo collettivo dove si ritrova? Quante donne ci sono all'interno di questo collettivo? Fanno anche dei momenti di formazione dove io posso imparare a fare radio, posso capire anche come è fatta la radio dal punto di vista tecnico per magari poi farne un'altra? Perché una volta c'era particolare attenzione all'aspetto formativo, si parlava proprio della condivisione, dello sharing. Lo sharing non era soltanto la condivisione dei file su internet, la condivisione era anche la condivisione dei saperi, e quindi molte delle attività dell'ACLAB erano fatte proprio per la formazione. Io ho iniziato così. Io ho iniziato perché dovevo lavorare e, come dire, era il 2002, il 2001, appunto, quell'epoca lì. A un certo punto, come dire, mi hanno offerto di lavorare nel mondo della comunicazione e io, come dire, dovevo scegliere. No, la mia famiglia non era una famiglia informatizzata, io non avevo mai avuto un computer in casa mia. Il primo computer che ho comprato, l'ho comprato usato, già frequentavo i corsi di New Linux che facevano all'ACLAB già al primo bulk e ho continuato a imparare all'interno di Pergola. sono andata, come dire, dai ragazzi dell'ACLAB, ho detto io voglio mettere Linux su questo computer, come si fa? Come faccio ad imparare? E così si impara collettivamente attraverso dei processi di, come dire, che Belux chiamerebbe di comunità educante, cioè processi orizzontali di apprendimento. E questo per loro era parte della loro cultura politica proprio, loro la definivano come una cultura politica. Perché? Perché c'era stato Linus Torvalds, che è stato quello che ha inventato Linux, in particolare il kernel Linux, che è il cuore del sistema operativo, e per fare, come dire, per sviluppare questo progetto aveva inaugurato un metodo che lui definiva Abazar. Questo metodo Abazar di fatto era un metodo orizzontale e un po', come dire, che sembrava essere caotico, dove lui che cosa faceva? Faceva in modo che il suo team, lui stesso, rilasciasse il codice sorgente quando questo codice sorgente non era ancora stato testato. Lo rilasciava così, grezzo, di modo che la comunità potesse prenderlo, testarlo, modificarlo e restituirlo. Cioè aveva creato una forma di laboratorio collettivo che non aveva più degli standard rigidi e gerarchici nel dire chi rilascia questo pezzo, chi fa il test, chi fa questo, chi fa quello, ma aveva invece una struttura che aveva una sorta di forma di stella, e dove questo processo avveniva in una modalità completamente nuova. Ecco, il momento in cui ho capito che la mailing list, me lo ricordo perfettamente perché ero fuori da Pergola e ero in macchina con C1 e proprio davanti agli occhi la panda di Bomboclat, e a un certo punto io chiedo a C1: ma quindi la mailing list del kernel Linux è una lista di discussione politica, non tecnica? E lui mi guarda e mi fa: sì, certo, è una lista di discussione politica e anche tecnica, ma è anche politica, queste due cose non si possono più distinguere. A un certo punto la questione è riuscire a allargare abbastanza le maglie delle competenze per fare in modo che anche persone non tecniche capiscano che cos'è che sta succedendo. E questa è stata la grande esperienza dell'ACLAB, che è riuscita ad allargare queste maglie, ad includere per esempio persone come me, che non sarebbero mai diventate dei tecnici, ma che avrebbero imparato ad osservare i fenomeni e ovviamente anche a farne un'analisi e a criticarle. Va bene, penso che la risposta ci sia. A Genova il movimento si era interrogato a lungo sui mezzi che utilizzava, direi che si può dire tranquillamente. Va bene, scusate, lascio. Sono dilungata. Ma no, invece bellissimo. È molto interessante. Mi stavo proprio un po' interrogando se questa cosa, cioè, mi viene anche un po' da chiederti, e tu pensi che invece questo tipo di condivisione di saperi anche molto tecnici ultimamente manchi un po' a livello politico, proprio nel movimento, nei gruppi che si muovono in questo momento? Sì, assolutamente sì. Nessuno vuole imparare più, non è che nessuno vuole imparare, è che la tecnologia così come ci arriva è una tecnologia che nasconde la sua complessità. Gli strumenti che noi utilizziamo tutti i giorni sono strumenti assolutamente ultra complessi, ma noi li approcciamo attraverso delle interfacce che sono fatte per avere un carico cognitivo molto basso. Sostanzialmente noi non usiamo la memoria procedurale, non usiamo la memoria dichiarativa quando le usiamo, ma usiamo soltanto la memoria procedurale, cioè usiamo l'automatismo per relazionarci con l'automazione tecnica. E quindi sostanzialmente smettiamo di pensare, smettiamo di farci delle domande. Questa cosa è una cosa, come dire, primariamente chimica, è chimico-politica. Ecco, Deleuze piacerebbe molto questa. Dovevamo invitare Lorenzo, penso che ci abbia scritto un pezzo della sua tesi su Deleuze. Ma è quello del rizoma, Deleuze? Sì, assolutamente quello del rizoma. 6 mesi di reminchiate in radio sono servite a qualcosa, scusa, perché era un ritornello che ci dicevamo sempre al rizoma di Deleuze, e vedi, alla fine è servito. Viva i ritornelli. Esatto. Viva a dire minchiate in radio. Prego, Giulia, vado, prossima domanda, vai. Vado con la prossima domanda. E questa si collega un pochettino al primo racconto che ci hai fatto, alla tua prima risposta, perché ci hai raccontato un pochettino come sei arrivata a Genova, qual è stato un po' il tuo percorso, She Squat, una sorta di rottura, qualcosa che a Milano non si era ancora visto, un gruppo di donne femministe, e noi volevamo sapere se adesso, riguardando indietro, guardando come sei arrivata in quel momento, quelle che sono state le tue decisioni, e poi come ti sei anche, come hai detto, di esserti mossa a Genova, ci sono stati degli aspetti che per te sono stati un po' imprescindibili, ma che però magari adesso, a distanza di 20 anni, vedi in un'ottica un po' differente, o che magari cambieresti, o su quali saresti magari un po' più disposta a mediare, se ti va più o meno di raccontarceli. Ma guarda, io credo che è una domanda difficile, perché in generale io non ho rimorsi, non ho rimpianti, sono molto contenta della nostra storia collettiva, almeno non lo so, del pezzo che nel quale sono stata coinvolta, ecco. Credo che l'unica cosa sulla quale forse avremmo dovuto interrogarci di più e che ancora oggi rimane un po' un peso per me, è la questione delle sostanze. Cioè, noi facevamo un po' i fighi sulle sostanze e non problematizzavamo abbastanza. Facevamo parte ovviamente dei percorsi delle reti antiproibizioniste nazionali, alle volte anche internazionali, però c'era un laissez-faire, c'era un essere un po' di, non so, non, ecco, mi viene da dire che non c'era un momento di auto-osservazione, non c'era un momento di riflessione su questo, abbastanza profonda. Avremmo dovuto ragionare di più su questo argomento da un punto di vista politico e rendere anche quello collettivo, sì, sì. Intendi? Sì, sì, esistenziale, politico, sul significato. Passava ingiudicato, passava e basta. Passava con un discorso antiproibizionista che però evidentemente non bastava, no, era carente. Soprattutto rispetto alle ferite che ci ha lasciato, perché ci ha lasciato delle grosse ferite individuali, collettive. Noi abbiamo avuto dei compagni che sono anche morti, e tutte le volte che, come dire, e in qualche modo questa cosa non la mettiamo a quadro, non riusciamo a metterla a quadro. Politico, si vive questa cosa con senso di colpa, con rimorso, ma si sa che il senso di colpa non serve a niente. La questione invece è magari capire un po' di più cosa stanno facendo le nuove generazioni su questo, per esempio. Beh, sempre per tornare magari anche al discorso di prima, che dicevi, una sorta di condivisione proprio per poter leggere anche il presente, quindi affrontarlo in una maniera più consapevole, mi viene da dire, in questo momento. Poi non so se il termine è giusto, però... per ora teniamoci questo, perché tanto, guarda, io ti ho risposto molto di cuore, molto così, sì, infatti, di emozione. Credo che forse è la prima volta anche che mi viene risposto riferendosi a quel periodo, toccando anche la questione delle sostanze, quindi anche un aspetto diverso. È bello, ci stanno anche le risposte di cuore, per fortuna. Andrei verso l'ultima domanda, però in realtà in qualche modo hai già risposto anche a questa, però magari hai anche altre cose da dire e sarebbe interessante. E quindi, in base a quella che è stata la tua esperienza, a questi 20 anni passati, da che cosa e da dove dovrebbe ripartire il movimento per ritornare ad avere una voce un po' più forte, un po' più chiara e magari coinvolgente? Ma per me il movimento è già ripartito, è ripartito dal transfemminismo e, come dire, da un certo livello anche di internazionale del transfemminismo, quindi anche con una attenzione decoloniale, internazionalista e decoloniale, quindi mi piace molto questo nuovo femminismo, questi nuovi femminismi mi piacciono molto, io sono esaltata, sono proprio presa bene e mi sono resa conto anche di come tutto il movimento queer sia cambiato, si sia aperto e sia diventato contaminante in questi ultimi anni, perché 20 anni fa gli spazi sociali non erano dei luoghi dove si parlava di frocerie, non erano luoghi dove si parlava delle questioni, come dire, della queerness, della teoria queer, non era, cioè, questo argomento non c'era, era relegato a una dimensione privata. Io ho fatto una festa al vecchio Bulk a un certo punto con un gruppo che già all'epoca era un gruppo a parte dentro Arcilesbica, che era il Circolo Zami, era, come dire, capitanato da soggette che poi sono diventate delle brutte soggette, alcune, perché alcune sono diventate delle TERF maledette, però altre invece sono rimaste delle compagne veramente squisite, come per esempio la Katia Acquafredda. E io le ho invitate a fare una festa al vecchio Bulk e ovviamente è andata, come dire, loro si sono divertite molto, però effettivamente si sono fatte la loro festa, cioè la gente del Bulk non si coinvolgeva, non si era coinvolta dentro quella festa lì, e io me l'ho sentita un po' fallita all'epoca dicendo ho provato a fare questa cosa, però non ha funzionato granché. Poi negli anni la situazione è andata migliorando perché un po' perché noi ci siamo autodeterminate con la questione di She Squat, che le femministe c'erano a Milano, quello che mancava era la casetta occupata delle nuove generazioni, perché le femministe c'erano, non è che mancassero. E, però poi c'era anche il gruppo queer, nel senso che noi lì abbiamo incontrato per esempio le ragazze e i ragazzi dei Pornflakes. I Pornflakes erano un gruppo che organizzava serate, che aveva una, per esempio a Leoncavallo organizzava serate, poi faceva la radio, e erano più orientati all'arte, alla performance politica, e spaccavano di brutto, cioè hanno veramente, come dire, She Squat più Pornflakes cominciava a essere già una piccola scena interessante. Oggi mi sembra che abbiamo una straordinaria ricchezza, cioè all'epoca insomma un po' ce la dovevamo fare da noi, oggi veramente c'è una bella rete di soggetti che hanno anche ripreso in mano dei temi forti, come dire, degli anni 80, dell'inizio degli anni 90, diciamo che un po' sulla sessualità per la parte che ho vissuto io degli anni 90 faceva un po' acqua, non era granché. Mentre invece adesso mi sembra che ci sia una maggiore facilità nel poter fare delle esperienze, anche, come dire, la questione della pornografia femminista, la questione del sadomasochismo che torna fuori, facendo, come dire, dando la possibilità a tutte di fare dei workshop, di stare dentro quella riflessione e quella pratica. Ecco, questo mi sembra veramente straordinario. Mi esalta. Sì, sì, condivido pienamente. Anche io sono molto d'accordo con quello che hai detto. Sì, vai pure, scusami. No, niente, coinvolgiamo tutti e tutte e tutto. Creiamo una scena, come dire, sex positive, che sia accompagnata dalle nostre riflessioni. Insomma, facciamo passare la rivoluzione ancora dal desiderio. Beh, mi piace come rilancio e sono davvero contenta che tu abbia anche questa lettura e questa visione, e che concludi anche questa intervista, che non è stata sicuramente facile, e con un aspetto così appunto positivo e di esuberanza, e spero che chi ci ascolterà possa trarre un po' di spunti di riflessione, quindi anche un po' di voglia di mettersi in gioco. Questo lo spero. Grazie. Veramente. Grazie mille. Grazie a te, Anahí. Chiudiamo l'intervista con uno dei brani che ci hai suggerito, dei Gotham Project. No, voleva mettere Gianna Nannini? Ah no, scusami, è vero, come vuoi, hai ragione. Come vuoi. No, l'aveva chiesto lei. Adesso ero tutta presa da questa conclusione. C'ho voglia di uscire e urlare quasi. Il pezzo si chiama Contaminata, di Gianna Nannini. E per ascoltare tutti i podcast di queste interviste, andate sul sito di Radio ZAM. Ecco, adesso sono emozionata e non riesco. Sul sito di ZAM, www.zam-milano.it, troverete nella sezione della radio tutti i podcast e questi delle interviste di questo percorso da memoria a storia su Genova saranno ovviamente messi più in evidenza. E ringraziamo ancora Anahí e speriamo di vederci presto e fare altre tante chiacchiere di approfondimento insieme. Assolutamente sì. Ci sarò. Grazie mille, Anahí. Ciao. Ciao. Ciao. La tua pelle è la mia pelle. Che colore più non ha? Sono sangue nel tuo sangue. Una sola anima. La tua storia è la mia storia. I miei occhi sono i tuoi. La mia ora è la tua ora. Il destino che non hai. Vola, vola, vola, vola, vola la testa. Vola, vola, vola chi mi porta via. Vola, vola, mi è dimenticata. Tu non mi conosci, sono appena nata. Contaminata. Contaminata. Contaminata. Ora che sono nata. Io non so dove sono. Io non so da dove vengo. L'infinito vaga dentro, io non ho nemmeno un segno. Vola, vola, vola, vola, vola la testa. Vola, vola, vola chi mi porta via. Vola, vola, vola mi è dimenticata. Tu non mi conosci, sono appena nata. Non importa più chi sono io. Si perde nel tempo, voce radioattiva della civiltà, fuoco nucleare che respiro nel vento, anima ribelle che si libera, come una canzone che si perde nel tempo, voce radioattiva della civiltà, fuoco nucleare che respiro nel vento, anima ribelle che si libera. Chi sono io? Rassomiglio ad un nel tempo, voce radioattiva della civiltà, fuoco nucleare che respiro nel vento, anima ribelle che si libera, contaminata.